Ora facciamo fare un intervento al rappresentante dell'Assemblea autoconvocata delle lavoratrici e dei lavoratori del sociale qui a Firenze. Buongiorno a tutti, mi hanno messo a me qua perché sono nuovo e quindi ci vuole un po' di ventata di aria fresca. Perché siamo qua, ecco. Noi è da penso più di un anno che ci troviamo ogni martedì o ogni del mese per delle assemblee autoconvocate dei lavoratori del sociale, perché si cerca di trovare delle soluzioni, delle alternative e delle proposte per ovviare a la situazione che dobbiamo subire tutti i giorni, che non è affatto facile. Perché non è facile? Perché i soldi sono sempre i soliti, noi siamo sempre di più e il sistema degli appalti, che è questo il primo punto che vado a toccare, è quello che porta le cooperative e il comune a cercare delle cooperative che giocano al ribasso e quindi offrono servizi sempre peggiori, e facendo lavorare noi a condizioni sempre peggiori. Io sono andato a firmare per esempio un contratto proprio ieri con la mia operativa, di cui non faccio il nome, in cui ho solamente 9 ore riconosciute regolari, le altre sono spalmate da una maternità e altre che non si sa bene da dove vengono. Comunque questa è un po' la situazione. Un altro punto che non si riesce a risolvere è la sospensione estiva. Noi quando le scuole chiudono, anche il nostro lavoro chiude. Uno dice andiamo in vacanza, ok, abbiamo guadagnato un bel po' durante tutto l'anno, poi provo ad andare a fare una vacanza, no, perché non lo puoi fare. Continuiamo ancora a percepire degli stipendi che sono risalenti a 20-30 anni fa. Quest'anno abbiamo avuto, per gentile concessione della CGIL, un cospicuo aumento, che qualcuno mi può dire dalla regia, 20 centesimi l'ora, ecco, per un contratto full time. Quindi la situazione è questa, siamo portati abbastanza all'estremo a situazioni di stress lavorativo, perché comunque il lavoro che facciamo è riconosciuto fino a un certo punto. Non siamo insegnanti, però ci troviamo, per esempio, chi fa lo scolastico come me la mattina, quindi entra a scuola, di fatto facciamo le stesse cose che fanno gli insegnanti, facciamo le stesse cose, ci troviamo lì allo stesso orario, e però il riconoscimento dov'è? Non c'è questa cosa. Quindi perché dovremmo essere trattati in maniera diversa dai nostri colleghi? Quindi quello che chiediamo è un aumento, un prezzo giusto, infatti non a caso ho messo questa maglietta, e cerchiamo di ottenere questi cazzo di 10 euro netti l'ora. Li vogliamo, perché ce li meritiamo? Direi. Li meritiamo? E poi al nuovo contratto nazionale. Disdettiamo il nuovo contratto per un contratto nazionale costruito dal basso, che tuteli e difenda i lavoratori e le lavoratrici delle cooperative sociali. Questo, Diego, mi devi aiutare un attimo. Sì, questo. Disdettiamolo, ma io chiudo per la sintesi. Facciamo una chiosa finale, ecco. Visto che comunque ci occupiamo della crescita, della salute delle future generazioni, penso che sia importante sostenere a noi, perché voglio dire, ne va anche del futuro dei vostri figli, dei nostri figli. perché se noi stiamo bene, noi stiamo più soddisfatti, con un benessere maggiore, lo riscontreranno anche i figli, i futuri figli di questa nazione. Non so che altro dirvi. Grazie, grazie.